Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti e il traghettatore, ben trovati. Cominciamo subito con una notizia che arriva da Forlì. Oggi si conclude il workshop dei giovani economisti sull'economia sociale. È l'ottava edizione, i giovani economisti speriamo che siano in grado di concepire una giovane economia meno conflittuale, meno controversa di quella che stiamo vivendo. Organizzata da ICON, che è l'Associazione Italiana per la Promozione della Cultura, della Cooperazione e del Non Profit, nasce proprio dalla Facoltà di Economia di Forlì. E restiamo nell'ambito accademico, parliamo della Scuola Alta Formazione Internazionale Etica e Sicurezza dell'Aquila, una scuola che fa delle 3A ambientale, alimentare e aziendale, come dire, la mission. Ce ne parla Paola Guerra Anfossi del Comitato di Direzione. Buongiorno, la Scuola Internazionale Etica e Sicurezza dell'Aquila nasce come un omaggio alla città dell'Aquila, quindi un gruppo di docenti universitari, di professionisti e di manager la fanno nascere 2 anni fa per creare in questa sede un centro di studio e di formazione sui temi della gestione dei rischi e delle emergenze per la sostenibilità. Quindi un omaggio a questa città, vogliamo tenere accesa la luce sulla città dell'Aquila che possa fare di un rischio che ha vissuto, di una tragedia che ha vissuto, un'opportunità di crescita. La scuola si rivolge a neolaureati soprattutto, ma anche ad imprenditori, a professionisti e a manager, e ha di fatto già iniziato e quasi terminato il primo anno del corso di alta formazione in etica e sicurezza 3A, quindi con la logica di approfondire tutti i temi della gestione dei rischi e delle emergenze nell'ambito dell'alimentare, ma anche dell'ambientale, ma anche dell'aziendale. Quindi vogliamo portare avanti questa missione. Abbiamo tra l'altro stiamo costruendo anche noi un ferry boat, quindi un'accademia navigante che abbiamo chiamato di valori in movimento, che ha già fatto 2 tappe delle 4 tappe. Abbiamo fatto la prima tappa a Santa Margherita Ligure dal 9 all'11 giugno, in cui abbiamo iniziato il dialogo tra chi si occupa di sicurezza, quindi security manager, e i giovani imprenditori dell'Associazione Giovani Imprenditori di Confindustria. La seconda tappa l'abbiamo già fatta a Milano, in cui abbiamo incentivato un dialogo tra i leader della sicurezza e della vigilanza con i professori universitari, che abbiamo chiamato Fare Luce sulla Sicurezza, quindi un dialogo al buio, tra l'altro all'Istituto dei Ciechi, quindi anche dove la logica era aiutare un po' gli istituti che hanno bisogno anche a Milano. Il 14 luglio avremo la terza tappa in cui tutti gli allievi del primo anno presenteranno le loro tesi, e questa sarà una giornata aperta a tutti, sulla forza dei valori in movimento tra l'etica e la sicurezza nella giornata mondiale celebrativa dei diritti dell'uomo, quindi 14 luglio. E poi in ultimo, dal 25 al 27, faremo base nella base della Marina Militare della Maddalena, dove grazie a Mondial Pro Service tutti i partecipanti potranno andare a dialogare sull'impegno sociale per la ricostruzione di un pianeta migliore. Bene, grazie Comitato di Direzione Paola Guerra Anfossi, alla prossima. Grazie. Alla prossima Enzo, grazie, buongiorno. E oggi è anche una giornata di candeline, 25 per la precisione, e parliamo di un marchio importante, il compleanno di Slow Food. Promotrice, l'associazione no profit evidentemente molto famosa, promotrice della cultura del buono, pulito e giusto, che proprio oggi appunto durante lo Slow Food Day compie e festeggia i 25 anni di vita in 300 piazze italiane che si stanno vestendo a festa con i produttori locali, quindi una grande festa alimentare. Il tema conduttore di questa giornata sono i piccoli agricoltori di prossimità. Vi ricordo che l'agricoltura di prossimità è quella dell'orto, è quella attorno alle città, non quella del trasferimento, come dire, interplanetario di cibo, spesso appunto che non corrisponde ai nostri ricordi alimentari. Questo è tutto per oggi. ferribotto@radio24.it è l'indirizzo a cui potete scrivere per segnalare i vostri eventi. Grazie alla redazione, ad Anita Panizza, in regia a Valeria Bernardi.